Europa 24. Stamattina l'incontro fra il Presidente del Consiglio Enrico Letta e il Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso per la firma dell'accordo di partecipazione dell'Unione Europea ad Expo Milano 2015. Un incontro che è stato anche l'occasione per riflettere su punti di forza e debolezze del sistema Europa. Fra pochissimo, qui accanto a me c'è Sergio Nava, che ringraziamo e che ha seguito questa mattina l'incontro. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Fra pochissimo dunque sentiremo quali sono stati i temi trattati. Prima però vi voglio far ascoltare come Letta ha salutato Barroso. Per l'Italia, caro José Manuel, credo che dobbiamo farti un applauso per il tuo italiano, che è assolutamente perfetto. Questo vuol dire l'Europa. Quando qualcuno di noi sarà in grado di parlare il portoghese come tu parli l'italiano, saremo assolutamente perfetti. Eh sì, è così, Sergio, tu parli un sacco di lingue, sei il perfetto europeo, però il portoghese non lo sai. Non lo so ancora il portoghese. Allora, Sergio, raccontaci un po', insomma, com'è andata la mattinata. Ma diciamo innanzitutto, inquadriamo anche l'incontro. L'incontro si chiamava New Narrative for Europe, una nuova racconto dell'Europa, se così possiamo dire, ed è stata una mattinata dedicata soprattutto anche attraverso un panel di giornalisti, scienziati, c'era Elena Cattaneo, la senatrice a vita, attori e artisti, a dare un nuovo progetto, dare una nuova narrativa di questa Europa e cominciare a raccontare l'Europa in un momento di crisi anche in un modo, se vogliamo, diverso. E devo dire che Letta, il premier Enrico Letta, ha trovato un modo molto pragmatico di raccontare, di dare la sua visione di questa nuova narrativa per l'Europa, perché ha parlato di quello che deve essere il sogno europeo, ma soprattutto ha fatto un discorso su come l'Europa deve darsi degli obiettivi concreti, visibili anche ai suoi cittadini, per poter tornare ad affascinare i cittadini e in qualche modo diventare sexy. In un certo senso l'Europa era un sogno dopo la guerra, però chiaramente col passare degli anni, con l'arrivare delle crisi, ha smesso di essere un sogno e forse è diventata anche un po' troppo burocratica. Allora sentiamo, direi, Enrico Letta cosa ha detto. Nei prossimi 10 anni l'Europa può decidere se essere ancora influente e decisiva nel mondo oppure se essere frammentata e ininfluente. O noi europei siamo uniti e ci rendiamo conto del fatto che è più ciò che ci unisce di ciò che ci divide, e che a quei livelli noi dobbiamo rendere forti e vincenti i valori europei, far sì che i nostri valori europei riescano ad influenzare le decisioni del mondo. Fermarsi a guardare la pagliuzza della differenza che c'è tra noi e i tedeschi, tra i francesi e gli inglesi, tra i portoghesi e gli sloveni, rispetto alla grandezza ormai della sfida globale, è pura miopia, che può servire a far vincere una singola campagna elettorale sfruttando la fatica sociale che oggi c'è nella nostra Europa, ma alla fine costruirà soltanto macerie. In questo senso, la sfida che noi oggi abbiamo di fronte è una sfida politica straordinariamente coinvolgente. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Era presente questa mattina, lo dicevamo, anche il Presidente della Commissione Europea Barroso. Allora Sergio, cosa ha detto? Allora Barroso, innanzitutto premettiamo che ha avuto un bilaterale con Enrico Letta a margine, alla fine di questo incontro. Immaginiamo e pensiamo che si siano anche chiariti sulle polemiche della settimana scorsa con la Commissione Europea, che ha detto: attenzione, dovete ridurre ulteriormente il debito dello 0,4%. E poi c'erano le famose parole di Olli Rehn sullo scetticismo circa la possibilità italiana di rimettere a posto riforme anche debito. Barroso ha fatto un discorso un po' più retorico, se vogliamo, però è stato molto interessante sulla parte in cui ha parlato dell'Ucraina. Just look to Ukraine. Those young people in the streets of Ukraine. È molto bello quello che ha detto, perché ha detto: quando parliamo di una narrativa, di un sogno europeo, chi lo sta facendo in questo momento sono quei giovani che stanno sfidando temperature polari, e sentite anche l'applauso che c'è stato, spontaneo, e stanno andando in piazza per chiedere l'Europa al loro paese, alla leadership del loro paese. Questa, se vogliamo, è una nuova narrativa per l'Europa. Ecco, poi c'è tutto il capitolo Expo, perché appunto, lo ricordiamo, stamattina firmavano comunque un accordo. Sì, c'è stato l'accordo, la firma ufficiale dell'accordo. L'Unione Europea entra in Expo, uno spazio di 1900 metri quadri lungo il Cardo e adiacente all'area dedicata alle regioni italiane, sarà il padiglione europeo in cui l'Europa mostrerà come è in linea, diciamo, con l'obiettivo dell'Expo, cioè nutrire il pianeta energia per la vita. Oggi la firma ufficiale, quindi da oggi l'Europa entra in Expo 2015. Grazie a Sergio Nava. Si chiude qui Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.